Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Oggi facciamo un'analisi un po' particolare. Entriamo dentro un racconto breve, uno di quelli che ti restano addosso, Sotto l'ombrellone rosso. Ah, sì, di Virginia Luneas. Giusto. Fa parte del suo progetto Casa Luneas. Esatto. Casa Luneas, scritture senza tetto. E anche della collana digitale Sottopelle. Sottopelle è un nome perfetto, devo dire. Sono storie che lavorano proprio lì, sotto la superficie. Sì, sussurrano, non gridano. E questa storia ci porta dritti su una spiaggia affollatissima, Ferragosto. Un giorno sospeso, un po' irreale. Un classico di Ferragosto. Proprio così. E il tema centrale è affascinante. La comunicazione silenziosa, le parole che non si dicono, ma si scrivono. Esploriamo cosa ci lascia questa storia. Molto volentieri. L'ambientazione, dicevamo, non è casuale. Ferragosto, la calca. È un palcoscenico, direi, perfetto per quel senso di isolamento che a volte si prova proprio in mezzo agli altri. Vero. C'è rumore, corpi ovunque, ma la vera comunicazione. Chissà quanta ce n'è davvero. Il racconto sembra suggerire poca, pochissima. Ed è lì che entra in gioco il tema, forte, delle parole non dette, o meglio scritte quasi, quasi per caso. E i protagonisti? Chi sono? C'è quest'uomo, no? Si capisce subito che uno che osserva. Sì, seduto un po' in disparte. Su una sdraio, dice il racconto, piegata male. E lui si sente un po' così, pronto ma aperto male. Mi è piaciuta molto questa immagine. Ha un quaderno con sé. Un dettaglio importante, il quaderno. E poi c'è lei, la ragazza, sotto un ombrellone rosso, vistoso, quasi un punto focale in mezzo al caos. Esatto. E l'osservazione per l'uomo è fondamentale. Lui ci riflette proprio sopra, su questo contrasto tra i corpi e le parole. Dice, i corpi parlano, ma nessuno li traduce. Lo annota, vero? Proprio così, sul suo quaderno. È un'intuizione notevole, secondo me, sulla comunicazione non verbale che si perde, si disperde nel rumore di fondo della spiaggia. Sì, tutti sembrano proiettati fuori, e lui invece guarda a questo vuoto comunicativo, a questo silenzio interiore in mezzo alla folla. Esatto. Poi però succede qualcosa. La situazione si sblocca. Lui prova a scrivere, butta giù un inizio di storia. C'era una volta un uomo che non parlava. Ma non è convinto, strappa il foglio. E qui entra in scena il vento. Ah, il vento. Un classico elemento narrativo, ma qui usato benissimo. Decisamente. Il foglietto vola via, leggero, e atterra proprio vicino a lei. Alla ragazza dell'ombrellone rosso. Immagino la scena. Lei lo raccoglie, lo legge, con calma, e poi, senza una parola, glielo ridà. È incredibile, il racconto che lui ha scartato, quello fallito. Paradossalmente, il ponte. Fa pensare, no? Che forse la connessione vera non nasce da quello che diciamo perfettamente, ma magari proprio dalla nostra vulnerabilità, dall'errore condiviso, da quello che scartiamo. È una bella riflessione. E questo dialogo senza parole poi continua, si evolve. Sì, più tardi è lei che si avvicina. E la comunicazione si sposta tutta lì, sul quaderno di lui. Lei prende il quaderno e scrive. Scrive una frase che in quel contesto suona quasi definitiva. Non serve parlare per capirsi. È forte come affermazione. Sembra quasi chiudere il cerchio del loro incontro silenzioso. Però la risposta di lui, secondo me, aggiunge una sfumatura importante, una complessità. Non trovi? Assolutamente. Lui cosa risponde? Risponde, ma a volte serve parlare per non perdersi. Ah, ecco. Bellissimo. Qui c'è tutta l'ambiguità, la delicatezza di questa comunicazione solo scritta. Può creare intimità, certo, un rifugio nel silenzio. Ma c'è anche il rischio, no? Dell'incomprensione, della distanza che si crea proprio perché non tutto forse si può affidare solo alla scrittura. Esatto, c'è una tensione palpabile tra queste due frasi. Capirsi senza parole, ma anche il rischio di perdersi senza parole. E il racconto, come la giornata, va verso la fine. La spiaggia si svuota, Ferragosto finisce. Il rito si conclude. Lui sta per andare via, ma trova un ultimo messaggio, sotto l'ombrellone rosso lasciato da lei. Cosa dice? Ci sono parole che non si dicono, ma si lasciano scritte. E mentre vede un altro foglio, chissà di chi, volare via col vento, lui pensa che non tutto va trattenuto. Lasciare andare. E questo finale si lega benissimo ai temi che spesso tornano nell'universo di Virginia Luneas, di Casa Luneas. Questa attenzione all'intimo, alle verità dette sottovoce, all'attesa, a queste connessioni umane quasi impalpabili. E al peso di ciò che non diciamo. Vero. E Casa Luneas come progetto, sostenuto dai lettori, indipendente, dà proprio lo spazio giusto per queste narrazioni più delicate, no? Che magari altrove farebbero fatica. L'effimero, ciò che si lascia indietro, lì assume un peso. Quindi, riassumendo, Sotto l'ombrellone rosso ci offre proprio questo. Un'esplorazione delicata, acuta, di come possa nascere una connessione profonda nel silenzio, in quel tempo sospeso di Ferragosto. Sì, sottolinea il peso delle parole non dette. Ma celebra anche la scrittura come alternativa. Come gesto intimo, segreto quasi, che può creare ponti inaspettati. E per lasciare chi ci ascolta con un pensiero, potremmo tornare alla dedica del racconto. Rende omaggio a chi scrive senza sapere se e chi leggerà. Giusto. E questo ci porta a chiederci, che valore hanno questi messaggi che affidiamo al mondo così, in modo fragile? Un foglio che vola, un biglietto lasciato sulla sabbia. Forse proprio la loro precarietà li rende potenti. Forse. La domanda che resta lì, sospesa come quel Ferragosto, è quali parole dette, non dette o magari solo scritte e poi lasciate andare lasciano davvero un'impronta sulla sabbia delle nostre vite? Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare. Un luogo libero, dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal, nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.